Ivo, come colui che è fuor di vita, che pare a chi lo sguarda come sia, fatto di rame o di pietra o di legno, che si conduca sol per maestria e porti nello core una ferita che sia come gli è morto, aperto il segno. Voi che per gli occhi mi passaste il core ed estaste la mente che dormia, guardate all'angosciosa vita mia che sospirando la distrugge amore e ven tagliando di sì gran valore che deboletti spiriti van via, riman figura sola in signoria e voce alquanta che parla dolore, questa virtù d'amor che m'ha disfatto. Da vostri occhi gentil presta si mosse, un dardo mi gittò dentro dal fianco, si giunse ritto il colpo al primo tratto, che l'anima tremando si riscosse, veggendo morto il cor nel lato manco. A me stesso di me pietate vene, per la dolente angoscia che mi veggio, di molta debolezza quand'io seggio, l'anima sento ricoprir di pene, tutto mi struggo perché io sento bene che d'ogni angoscia la mia vita è peggio, la nuova donna cu Mercede cheggio, questa battaglia di dolor mantene, però che quando guardo verso lei rizzami gli occhi dello suo disdegno sì feramente che distrugge il core, allor si parte ogni virtù da miei e il cor si ferma per veduto segno dove si lancia crudeltà d'amore. Una giovane donna di Tolosa, bella e gentil d'onesta leggiadria, è tante dritta e simigliante cosa nei suoi dolci occhi della donna mia, che fatta dentro al cor disiderosa l'anima in guisa che da lui si svia e vanne a lei, ma tant'è paurosa che non le dice di qual donna sia. Quella la mira nel suo dolce sguardo, nello qual face rallegrare amore, perché v'è dentro la sua donna dritta. Poi torna piena di sospir nel core, ferita a morte d'un tagliente dardo che questa donna nel partir li gitta. Era in penser d'amor quand'i trovai due foresette nove. L'una cantava e piove gioco d'amore in noi. Era la vista lor tanto soave e tanto queta, cortese e umile, chi dissi lor, vo portate la chiave di ciascuna virtù alta e gentile. De foresette non m'abbiate a vile per lo colpo ch'io porto. Questo cor mi fu morto poiché in Tolosa fui. Elle con gli occhi lor si volser tanto che vider come il core era ferito e come un spiritel nato di pianto era per mezzo dello colpo uscito, poiché mi vider così sbigottito, disse l'una che rise, guarda come conquise forza d'amor costui. L'altra pietosa, piena di mercede, fatta di gioco, in figura d'amore, disse il tuo colpo che nel cor si vede, fu tratto d'occhi di troppo valore, che dentro vi lasciaro uno splendore ch'io non posso mirare. Dimmi se ricordare di quegli occhi ti puoi. Alla dura questione e paurosa, la qual mi fece questa foresetta, i dissi, e mi ricorda che in Tolosa donna m'apparve accordellati stretta, amor la qual chiamava la mandetta. Giunse sì presta e forte che fin dentro alla morte mi colpir gli occhi suoi. Molto cortesemente mi rispose quella che di me prima avea riso. Disse la donna che nel cor ti pose con la forza d'amor tutto il suo viso dentro per gli occhi ti mirò sì fiso, ch'amor fece apparire. Se t'è greve il soffrire, raccomandati a lui. Vanne a Tolosa, ballatetta mia, ed entra quietamente alla dorata, ed ivi chiama che per cortesia d'alcuna bella donna si è menata dinanzi a quella di cui t'ho pregata. E se ella ti riceve, dille con voce leve: per mercè vegno a voi. Noi siamo le triste penne ispicotite, le cesoiuzze e il coltellin dolente, c'avemo scritte dolorosamente quelle parole che voi avete udite. Or vi diciam perché noi siamo partite e siamo venute a voi qui di presente. La man che ci movea dice che sente cose dubbiose nel core apparite, le quali hanno distrutto sì costui ed hanno il posto sì presso alla morte ch'altro non v'è rimaso che sospiri. Or vi preghiam quanto possiam più forte che non sdegnate di tenerci noi, tanto ch'un poco di pietà vi miri. Or incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. Io venni in luoco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta quando giungon dinanzi alla ruina. Quivi è le strida, il compianto e il lamento, biasteman quivi la vertù divina. Intesi ch'ha così fatto tormento eran dannati i peccator carnali che la ragion somettono al talento, e come gli stornei ne porta all'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua di là di giù di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aer di sì lunga riga, così vid'io venir traendo guai, ombre portate dalla ditta briga. Perché io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aer nera si castiga? Odio elegida musica, scusate. La prima di color, di cui novelle tu vuoi saper, mi disse questi allotta: fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu si rotta, che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. E l'esse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo, vedi Paris Tristano e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito ch'amor di nostra vita di partille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarito. Io cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed elli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che mena, e quei verranno. Sì tosto come il vento a noi le piega, movì la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal voler chiamate,

Allora, io leggo la commedia dall'edizione Sanguinetti, che non è, avrete sentito che nel quinto canto c'erano molte varianti, però vabbè. Francesca cita Guinizelli quando dice amor, eccetera. Cioè è una letterata che ha ceduto all'inganno letterario, cioè della finzione letteraria, come Guido, perché di fatto poi Dante, dallo stilnovismo come linguaggio in codice fra letterati, che è il vizio della letteratura fiorentina ancora, Dante, che era un uomo coraggioso e non era un fiorentino, era un fiorentino ma si staccava dai vizi dei fiorentini, a un certo punto si stufa, cioè la commedia in realtà, cioè, si sa tutti, no? Dopo aver scritto tante rime bellissime, così petrose, dove moriva, sentiva male, la morte, il dolore, la malattia mortale, con la commedia cambia registro, cioè si sa tutti, no? Che nel mezzo del cammin di sua vita, cioè lui si era stufato delle donnine, delle donnette, delle monne, monna, vanna, nagia, la numero delle tre, cioè di questi giochi da intellettuali fiorentini, insomma, da intellettuali anche non fiorentini, però in realtà prende dello stilnovismo la parte più prende la parte metafisica, cioè rimane forte e domina il purgatorio e anche il paradiso l'aspetto dell'amore come dittatore, cioè come dettatore. L'amore è una voce, è uno spirito, un fiato caldo, un fuoco che detta. Ma quindi cosa succede? Che a un certo punto, dopo la parodia infernale, nel purgatorio Dante incontra gli amici, da cui si è visto escludere quello che gli era più caro, ma che appunto il purismo di Guido, purismo petrarchista si potrebbe dire, di Guido, allontanava Dante. Dante ama gli sperimentatori, e quindi in purgatorio incontra tanti poeti. Io non ho messo tutti i canti degli incontri coi poeti, qui sta passando un carro armato, un banchino, e allora io continuo a fare l'intrattenitore. E insomma, diciamo che permane la fede nella poesia. Ecco, Dante, cioè, c'ha fede nella poesia fondamentalmente, perché vede nella poesia la voce di Madonna, cioè dello spirito che parla, eccetera, e lì innesca il disastro del tu letterario, ma insomma quello sarebbe un altro discorso. Però io masochisticamente mi sono data a leggere questi testi pubblicamente, quindi insisto. Allora, il processo, la seconda parte di questa lettura attraversa due canti del Purgatorio, dove incontra brevemente Bonaggiunta all'inizio, solo giusto per dare due colpi alla questione, a come Dante si autocertifica tramite gli amici a portavoce assoluto del dittatore amore. Poi l'incontro fondamentale, bellissimo, con Guinizelli e Arnaut, quando incontriamo Guinizelli, sentiamo anche Guinizelli, è un fuori programma. E infine Beatrice, in un canto dottrinale, perché Beatrice, cioè, dopo aver proprio ripulito con la candeggina tutto il concetto di amore, Beatrice alla fine, cioè, è dottrina pura, è teologia, però è il sorriso della teologia, insomma, è l'amore proprio, veramente la donna angelicata, senza, proprio senza più quasi nessuna relazione con altro. Per cui il momento di massimo entusiasmo, secondo me, di Beatrice è quando Beatrice elenca in maniera assolutamente dottrinale le gerarchie angeliche a Dante, ed è il 28° del Paradiso in cui finiamo, se mi basta il fiato, perché è di una faticosità che non ne vengo a capo. Ma dissi, io veggio qui colui che fore trasse le nove rime, incominciando: donne che avete intelletto d'amore, e io a lui, io mi son unche quando amor mi spira noto e a quel modo che i ditta dentro vo significando. O frate, il saveggio dissegli il nodo che il notaro e guitone me ritenne di qua dal dolce stil e il novo chiodo. Io veggio ben come le vostre penne di rietro al dittator sen vanno strette che delle nostre certo non avvenne. E qual più a guardare oltre si mette non vede più dall'uno all'altro stilo e quasi contentato si tacette. Il padre dello stilnovismo. Atmosfera, me ne vado e torno quando c'è l'atmosfera. Chi mi chiama? Samba, mi chiami tu? Ah. Fra mezzo minuto. Vediamo l'atmosfera allora. Dovete un sorso di tè? Un minuto di concentrazione. Incipit cantica prima Comedie Dantis Alagheri. Capitulum 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vi ho scorte. Io non so ben redir com'io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cuor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già di raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cuor m'era durata la notte che io passai con tanta pietà. E come quei che con l'ena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse a rietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che ebbi riposato il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impedia tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di pria quelle cose belle, sì ch'a bene isperar m'era cagione di quella fiera alla gaietta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che incontro mi venesse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che la erne tremesse, e una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'atrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripingea laddove il sol tace. Mentre ch'io rovinava in basso luogo, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sie, ombra o omo certo, risposemi, non omo, omo già fui. E li parenti mei fuoron lombardi, e Mantovan per patria ambedui. Nacqui so Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il delituoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi o lui con vergognosa fronte, o degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercare il tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei famoso e saggio, che la mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tener altro viaggio, rispose poi che lacrimar mi vide, se vuoi campar de sto luogo selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide, e a natura si malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'amoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ci verrà terra nel peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra il feltro e il feltro di quella umile Italia fie salute, per cui morìo la vergine Camilla, Eurialo e Niso e Turno di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno la onda invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo mai penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida e trarotti di qui per luoco eterno, ove udirai le disperate strida e vedrai gli antichi spirti dolenti ch'alla seconda morte ciascun grida, e vedrai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia, alle beate genti, alle quai poi se tu vorrai salire, anima fie a ciò di me più degna, colà ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, perché io fui rubellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venga. In tutte parti imperia, e qui vi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio, oh felice colui che qui vi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Iddio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male peggio, che tu mi meni là dove dicesti si chioveggia la porta di San Pietro e color che tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Capitolo 2. Lo giorno se n'andava e l'aer bruno toglieva gli animal che sono in terra dalle fatiche loro, e io, sol uno, m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del camino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. O musa, o alto ingegno, ormai tate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima ch'all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora,